Lottavamo come si gioca, eravamo cuccioli in gabbia, fomentati da troppa droga. Semplici studenti, ma incazzati, attenti, pronti ad avere tutto e subito. Avevamo tempi stretti, antifascisti militanti. E a chi spaccava il cazzo gli mostravamo i pugni. In 10.000 in piazza, era vera tempesta, come una festa dei folli, pazzi per la protesta. E voi a dire che non sta succedendo niente, voi che la vita continua, ve l'ha detto il presidente. Voi in attesa, in piedi, a ridere di noi, massacrati sui marciapiedi. Voi che credete alle cazzate della tele, voi 8 ore al giorno e i giochini di potere. Voi che vi credete assolti, quelli mai schierati, bastardi, siete quelli più coinvolti. Rebel Music, vogliamo le stelle. Rebel Music, stanchi delle vostre palle. Rebel Music, qui non reggono le vostre novelle, al processo di una musica ribelle. Rebel Music, vogliamo le stelle. Rebel Music, stanchi delle vostre palle. Rebel Music, qui non reggono le vostre novelle, al processo di una musica ribelle. Siamo tanti arroganti, siamo i ribelli stanchi di politici corrotti e dei loro volti sempre quelli. Ehi, è un inferno, fratello, burn baby burn, come disco inferno che nemmeno te ne accorgi che ti hanno già fottuto il cervello. Ehi, yo, Rebel Music, servono musi incazzusi per impugnare sti musi. Abbiamo usi, costumi comuni. Ehi, yo, abbiamo travasi di bile, custodiamo lo scibile perché un altro mondo è possibile. BS Raio, siamo guerrieri da strada. Noi abbiamo sassi e spranghe perché è una cazzo di intifada. Nike parte 2 perché è una saga o un cazzo di impero. Alla Tony Montana siamo i più puri, cresciuti con la fissa dello scherzo, caricati da anni di silenzio. Esplodiamo, uccidiamo da Berlusconi, Calderoni e Borghezio. Rebel Music, vogliamo le stelle. Rebel Music, stanchi delle vostre palle. Rebel Music, qui non reggono le vostre novelle, al processo di una musica ribelle. Rebel Music, vogliamo le stelle. Rebel Music, stanchi delle vostre palle. Rebel Music, qui non reggono le vostre novelle, al processo di una musica ribelle. E voi a dire che non sta succedendo niente, voi che la vita continua, ve l'ha detto il presidente. Voi in attesa, in piedi, a ridere di noi, massacrati sui marciapiedi. Voi che credete alle cazzate della tele, voi 8 ore al giorno e i giochini di potere. Voi che vi credete assolti, quelli mai schierati, bastardi, siete quelli più coinvolti. Rebel Music, vogliamo le stelle. Rebel Music, stanchi delle vostre palle. Rebel Music, qui non reggono le vostre novelle, al processo di una musica ribelle. Rebel Music, vogliamo le stelle. Rebel Music, stanchi delle vostre palle. Rebel Music, qui non reggono le vostre novelle, al processo di una musica ribelle.